Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera alle amiche e gli amici di Blu Radio Veneto. Eccoci ancora una volta qui con voi per passare un'oretta in compagnia. E salutiamo l'amico partner, è tutto un po', Antonio Ceccato. Buonasera Gesi, buonasera. Un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Sì, ma i nostri ascoltatori saranno curiosi di sapere chi c'è stasera. Naturalmente, questa sera abbiamo un personaggio speciale, che è Glauco Stefanato, figlio di Vittorio, barcaro del Sile, anche noto come lo zingaro del fiume. Buonasera, buonasera, Glauco, buonasera, buonasera, bentrovato. E bentrovato. Buonasera a tutti i radioascoltatori, e grazie, un caloroso saluto. E grazie di aver accettato l'invito. Bene. Ecco. Allora, prima di dare la parola al nostro ospite, andiamo con il primo brano musicale. Questa sera abbiamo Tutto Milva, quindi La Filanda. Cos'è, cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché, perché eri il figlio del padrone, facevi tentazione e venni insieme a te. Così, così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, hai l'amore. Prima sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è? Cos'è questa vita fatta adesso? Tu giri col calesse ed io non cedo. Cos'è, cos'è questo padre che comanda? Mi vuole alla filanda ma non insieme a te. Cos'è, cos'è questa grande differenza? Se non facevi senza di questi occhi miei. Perché, perché nella mente del padrone hai il cuore di cotone, la gente come me. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi. Ormai lo so, tutto il mondo è una filanda, c'è sempre chi comanda e chi ubbidirà. Però, però, se l'amore si fa in due, di queste colpe sue ne ho anch'io la metà. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi. Ed eccoci in studio con il nostro ospite, al quale chiediamo come nasce un barcaro e quali sono stati i suoi primi viaggi. Un barcaro nasce perché, avendo alle spalle una tradizione, papà, mamma, zie, nonni, tutti barcaioli, una volta terminata la scuola, tutta la famiglia va in vacanza, si imbarca. Ah. Allora si segue, si osserva tutte quelle manovre che fanno i marinai di nascosto senza intracciarli, e si vive veramente una vacanza, come affittare una barca per andare a spasso. Certamente. Ecco, allora a bordo devi imparare anche a cucinare, far la polenta. Eh beh, sì. La prima cosa è quella che quando fai la polenta come minimo ti lascia il segno, ti devi ustionare le dita. E perché? perché non sei capace, devi rovesciare il paiolo, tenendo conto che quando rovesci il paiolo c'hai le dita, dai una volta, dai due, dai tre, e dopo si impara anche a sartare, si dice sartare a poeta. Sì. E dopo fare la pulizia con la sessola a scoetta, si fa la pulizia con la spugna, con l'acqua, dove c'era l'alloggio sotto la prua o la poppa c'era l'alloggio, e andando su e giù, sai, portavi sempre della polvere, certo, cose, certo. Come, e dopo i contatti che avevi anche con altri barcari e con altri ragazzi che facevano sempre la vacanza a bordo del papà, a bordo del nonno, a bordo del zio, e lì imparavi a parlare anche il dialetto chioggiotto, palestinotto, mantovano, perché i dialetti sono sempre stati importanti. E mi ricordo che quando si andava a terra, in queste osterie dove i barcaioli stipulavano i contratti di viaggio, ecco, in queste osterie si parlavano qualche 50 dialetti. Quindi lei conosce anche il mantovano un po'? Certo, perché c'era una società di navigazione, la Mantovana, che mandava a Venezia i burci. Un burcio è una barca lunga 30-35 metri, però, con una capacità di portata fino a 3.500 quintali. Andavano a Venezia a caricare, vuoti anche carichi, andavano a caricare il legname che arrivava con le navi a Venezia e Chioggia dalla Russia. Le navi erano russe e caricavano questo legname perché dopo, attraverso la laguna, passando la Brenta, passando l'Adige, arrivando sul Po, risalivano il fiume e dovevano trasportare il legname alla cartiera Borgo di Mantova. Ah sì, sì, famosa, sì, tuttora, appunto, sì, sì, sì. Ma a Mantova hanno il Po, ci sono tanti barcaioli a Mantova. Tantissimi, si trasportava il sale, il sale minerale da Porto Marghera, si caricava questo sale minerale sempre per portarlo a Mantova e scaricarlo lì alla Monte Edison. Adesso avete i ponti, una volta si navigava il Po in barca? Anche... Si navigava il Po è un fiume che adesso lo devi tenere sotto controllo, ma sai che quando fa una piena l'acqua, la corrente deposita la sabbia sia a destra che a sinistra. Allora c'erano i famosi meadori, che erano gli scandagliatori, che tutte le mattine scagliandavano il fiume mettendo dei segnali per i barcaioli, per i navigatori. Tutte le mattine? Ogni mattina. Quindi sì. Anche perché chiaramente non poteva essere verificato qual era, diciamo, il deposito prima, eccetera. Però i barcaioli di Mantova erano molto abili, molto bravi. Risalivano il Po attraverso le correnti d'acqua che andavano piano, si chiamava Moenti, e avevano un'asta lunga 5 metri e con la barca piccola e il bateo andava prima davanti la barca piccola, 300-400 metri, e andavano a scandagliare e così preparavano il canale per la navigazione. E se un'opera indispensabile, devo dire, perché altrimenti non si sarebbe potuto navigare. I barcaioli mantovani erano molto esperti, perché anche per esempio da Mantova a Reggio Emilia, cioè c'era Guastalla, no? da un paesino di Mantova, il primo paese dell'Emilia, andavano sempre navigando. Tutti i barcaioli dei fiumi, sai, perché i fiumi per l'uomo sono state le autostrade dell'antichità, dove si insediavano le prime civiltà, dove si perpetuava la cultura. Noi possiamo andare da Punta Sdoba a Monfalcone fino a Milano, si arrivava fino a Milano. Addirittura fino a Milano. Fino a Milano. Nel 1219-20 due barche dell'armatore Vianello di Pellestrina, cariche di frumento, risalivano il fiume Po, il Ticino, andavano nei navigli di Milano trasportando frumento. Cioè, certo che era un, diciamo, dopo è stato abbandonato un momentino, ma gli ultimi anni c'è stato questo pentimento per un abbandono di vie d'acqua che sarebbero state straordinarie anche al giorno d'oggi. Sì, ma tu è arrivata la famiglia italiana Agnelli Torino. camion e strade, le vie d'acqua devono scomparire, come sono scomparsi i barcaioli. I barcaioli. Caro mio, giornate come queste che dovevi attraversare il fiume per andare dal mio paese, di Mantova, al primo paese lì di Reggio Emilia, e dovevi andarci con la barca, c'era un freddo. E la cultura come si faceva per diciamo, i figli dei barcaioli? Perché chiaramente essere imbarcati voleva dire, diciamo, crearsi una cultura della barca, ma dalla cultura, come posso dire, libresca, come le testimonianze dei vecchi, la scuola di vita che ci facevano erano i vecchi, come sempre, gli anziani, come i saggi, ad operare la parola vecchio brutta, io dico i saggi che ci trasmettevano il comportamento, sì, come vivere, il rispetto che manca un pochettino adesso. Sì. Questo è un dato de fatto, naturalmente. Già dalla seconda elementare, quindi mi pare che sia stato il primo imbarco, se non ricordo male, giusto? No, dalla seconda avviamento. Alla seconda avviamento. Una sperimentazione della scuola media. Ah, ecco. Allora, seconda avviamento. Mio papà con la barca si trovava a Casale sul Scile Carico di Avena per il mangimificio del consorzio agrario, e io vedevo queste barche che passavano, vedevo il fiume, vedevo la vita. Niente, e sono andato al papà, quando che io non voglio più andare a scuola, la scuola non è per me, non. Papà ha cercato di desistere, niente da fare. Allora mi dice anche dopo a casa, la sera, cosa, e avanti, su e giù. Mi dice, guarda che se vieni a bordo, questa frase l'aveva ripetuta il papà suo, mio nonno, lui. Tu se vieni a bordo dalla barca dopo non sbarchi più. E così è stato. E ancora oggi. Per obbligo e anche per piacere, presumo, perché deve essere più che un lavoro, un'esperienza, o sbaglio? Certo. Allora questo mio primo viaggio, non quando andavo in vacanza era tutta un'altra cosa. Certo. Questo mio primo viaggio lavorativo, siamo partiti con un convoglio di burci, più burci, per andare sul Basso Polesine a Scardovari a caricare una partita di 10.000 quintali di frumento per ordine dell'armatore fluviale Dante Bernardi, un convoglio di barche. Cioè il convoglio, quanto eravate? Eravamo sei barche, sei burci. Sei burci. E tutti burci trevisani. Ah, e abbiamo trovato anche qualche difficoltà. Allora, prima di tutto, le difficoltà per le barche sono i ponti. Quei ponti che hanno costruito molto bassi. Ci sono le barche che sono costruite alte. La prua della barca, il brocon, l'abbellimento, sì, del burcio, si chiama brocon. Quando siamo arrivati a Cavanella d'Adige per navigare un tratto del canale di valle, lì non passiamo, c'era alta marea, non passiamo col brocon con una imbarcazione sotto. Allora, anche quella è la scuola, allora cosa fanno? Decidono di portare a prua la barca piccola, la scialuppa, di metterla a prua, di imbragarla e con i velicelli, con il paranco, di issarla. E lì si riempie d'acqua. Si riempie d'acqua in modo che tira giù la prua. Era che c'è un detto che dice: un accorgimento. Quando passa il brocon, passa anche il timone. Queste sono cose che si imparavano evidentemente sulla propria pelle, nel senso, se si voleva passare bisognava trovare qualche accorgimento, qualche particolare in questa natura. Allora il viaggio continua, dopo si imbarca un pilota, i piloti erano importanti, se non conosci il fiume è come quando vai in qualche località, adesso vai con i navigatori, dovevi imbarcare un esperto del fiume. Siamo andati a caricare di frumento a Scardovari, una barca alla volta, sotto il ponte arrivavano i carri con i sacchi pieni di circa 100 kg e da sopra alla rinfusa mollavano alla rinfusa e si tenevano il sacco, però uno ogni tanto lo buttavano intero, però lo pesavano. Quello era il campione, lo buttavano intero in modo che dopo, quando veniva scaricato, vedeva che tolleranza che c'era di calo su questo sacco di frumento. Perfetto. A noi. Ci andiamo avanti con le canzoni. Noi andiamo avanti con il secondo brano, che è Tango Italiano. Italiano. vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mare. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiare, fra mille luci colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. La nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare. Un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. Nostro ospite. Allora, quali merci trasportavate e quali fiumi? Allora, si navigava. Navigavate, sì. Intanto il fiume Sile, il nostro fiume silente e silenzioso. Sì, sì. Allora, qui a Casier c'erano le draghe che dragavano sul letto del fiume la ghiaia, riportando alla luce spade, pugnali, queste testimonianze che si trovano al museo Luigi Bailo di Treviso. Giusto. Allora, ultimamente si navigava trasportando semi oleosi per la Chiarie Forti di Silea. Si trasportavano i semi di girasoli che arrivavano sempre dalla Russia. I semi di girasoli imbarcati su questi burci venivano portati su per fare l'olio di semi. Misto di semi vari, perché oltre che i semi di girasoli si caricava anche di sesamo. Si caricava di arachidi, mm-hmm. E questo è l'olio di semi vari. Sì. Dopo invece si importa la colza, però la colza succede uno scandalo e niente, viene fuori confusione, ferma tutto, non si lavora più. Allora si importa la soia, olio di soia. Però con questo non va avanti tanto e si chiude tutto, i barcaioli cambiano mestiere, chi va a imbarcarsi sul Po, eccetera, eccetera. Noi, gli ultimi, trasportavamo segala, trasportavamo orzo, trasportavamo ancora ghiaia, eccetera, per la Pagnan di Padova. Il carico veniva fatto a Chioggia. Certo che la sabbia deve essere pesante. La sabbia e la ghiaia, soprattutto la ghiaia. E anche si caricava di cellulosa, che arrivavano le navi dalla Svezia, a Porto Marghegera o a Venezia, si caricava la cellulosa dei bae quadrate pesanti di circa 220 kg e la trasportavamo qui a Silea, dove c'è il porto, per la cartiera Borgo di Treviso. Mm-hmm. E dopo si trasportava, come ho detto prima, anche se andiamo un po' indietro, trasportavano la vegetazione palustre che tagliavano sulle barene, la vegetazione alofila ricca di sale, alof dal greco sale, sì, sì. Questo strame che serviva per fare il letto agli animali, per far funzionare le fornaci, e dopo sì, anche per commerciare con i contadini, con i pescatori, perché lo commerciavano con gli ortolani, la lettiera, per buttare sugli orti, e i pescatori risalivano il fiume, queste sono testimonianze che mi ha raccontato mio papà, dove in tempo di guerra portavano su anche l'acqua salata, commerciavano l'acqua salata. Acqua salata. Ah sì, per far che cosa? L'acqua salata per far bollire, restava il sale, in tempo di guerra non c'era il sale. Non c'era sale. Sì, è vero. Voglio raccontare anche quando si navigava il fiume Lemene. Allora, sempre a Porto Marghera, arrivavano le navi, si andava sotto bordo e si caricava di sabbia del deserto. Si navigava la laguna, si entrava sulla parte del Cavallino, si navigava la litoranea veneta, entrando dopo sul fiume Lemene per arrivare a Porto Guaro. Si vedeva anche la bellissima Concordia Sagittaria, una colonia romana. Naturalmente, e dopo, come altre merci, c'era la sosta nella marittima di Venezia, quando non c'erano magazzini o container come adesso. Allora i burci facevano da container e ti pagava la giornata. Si caricava di cotone, si caricava bae de gomma, si caricava di juta, si caricava vaselame, si caricava anche di vestiario di ok. Vestiario di ok è quello scarto che facevano gli americani per mandarlo a Prato. Perché dopo Prato... Gli stracci. E dopo un'altra cosa, sempre al porto di Venezia o di Marghera, arrivavano le navi, era molto intenso il lavoro a Venezia, si caricava di zucchero che arrivava da Cuba, zucchero in canna. Zucchero da Cuba. E lo si trasportava a Botrighe, lo si trasportava sul Po, lo si trasportava a Pontelongo, Pontelongo, lo si trasportava a Cavarzare. Allora, per andare a Pontelongo si navigava tutta la laguna di Venezia, arrivando sulla Brenta si risale e si prende il fiume Bacchiglione. Se invece si prende l'altro fiume più avanti, poca cosa, il fiume Gorzone, e anche lì si caricava di zucchero, però raffinato. Si caricava questo zucchero con la barca vuota, sì, e si portava giù per caricarla nei bastimenti dove veniva data la destinazione. Sì. Un sacco di materiali, eccetera, ma il viaggio di andata e il viaggio di ritorno erano sempre carichi oppure si facevano viaggi a vuoto? Perché anche lì l'economia avrebbe dovuto... Solo sul Po si faceva l'andata e il ritorno, perché sul Po navigavi carico di grano, lo portavi a Ferrara, o anche carico di cemento che si caricava a Chioggia, lo portavi a Ferrara. A Ferrara, per arrivare a Ponte Lagoscolo, navighi sul fiume Po. Sì. Dopo c'è una conca di navigazione, passi e navighi il canale Boicelli. Oppure si andava a Castelmassa, carichi di grano, all'Interlamide, oppure a Mantova. Castelmassa mi pare che sia anche ancora Rovigo, no? Sì, vicino a Rovigo. E dopo si scendeva vuoti, poca cosa, per andare... Chi arrivava da Mantova o da Castelmassa, sempre sul canale Boicelli, a caricare alla Montedison di urea e di nitrato, per trasportarlo a Venezia e caricarli nei piroscafi. Sì, sì, sì, sì. Quindi praticamente non c'era questa economia un po' di scala come succede ora con i camion, eccetera. Non c'era possibilità, anche perché non c'erano, come dire, dei presidi, no, con dei materiali che potessero essere utilizzati. Però i viaggi, se dovevi aspettare, avevi fatto un carico e dopo eri nella zona, l'armatore, il responsabile, ti diceva: guarda, che c'è da aspettare 7-8 giorni per fare un carico di barbabietola o di frumento, vuoi aspettare? Sì o no? Allora aspettavi. Era una, sì, certo, una libera, sì, scelta da, certo, parte del barcaro, e naturalmente in quel frattempo rimaneva del tempo per fare altre cose che dopo vedremo naturalmente. Quindi lavoravate anche domenica, giorni, feste comandate, sempre? Sempre, si lavorava, no, sempre. E anche un'altra cosa, l'orologio e la sveglia non esistevano. Non esistevano. Sai, quando mi raccontava mio papà, quando aspettavano non c'erano i motori, non c'era la motorizzazione, c'era l'attiraglio sulle rive dei fiumi, sulle restere. La restera deriva da resta, la fune. Come l'aglio attorcigliato che, esatto, si trova sotto il barco, la resta, dei contadini. La resta del... Mio papà mi raccontava sempre che quando a Porte Grandi tutti questi burci carichi vuoti aspettavano la brezza, il vento, il borin, si alzava verso mezzanotte e mezza, luna. Allora i barcaioli andavano a far bisboccia in osteria. Dopo andavano a bordo per dormire e aspettavano il vento. Com'è che se ne accorgevano? Allora, prima di andare a dormire, di coricarsi, tiravano sulla vela, va bene? E la lasciavano in bando. La scotta, la fune piccola, se la legavano sulla caviglia. Ah. Quando la vela cominciava da su e giù, quella era la sveglia. Mamma mia, che ingegnoso che è l'uomo. Romantico per certi versi, sì, ma anche ingegnoso, ma veramente. Insomma, se ne imparavano di tutti i tipi, cioè, occorreva adattarsi evidentemente al caso, non è che si potesse fare più di tanto. Scuola di vita. Erano amici di tutti i barcaioli, erano amici. Sì, erano, lo so io, si chiamavano da un lato all'altro. E quindi anche, sì, ogni fiume aveva la propria, come dire, tra virgolette, personalità. Certo. Di quelli che, cioè non era la stessa cosa viaggiare, che so, sul Po o sul Sile o cose di questo tipo, no? Non erano fiumi pericolosi, perché sul Sile non era pericoloso, l'Emene neanche. Qualche volta invece, quando navigavi il Bacchiglione, non potevi navigarlo sempre. Lo navigavi il martedì e il venerdì. E perché? Perché Padova teneva sotto chiave l'acqua. Quindi non c'era pescaggio sufficiente. Il martedì e il venerdì gli faceva a buttata. Ho capito. Gli muoveva l'acqua e a buttata. Una volta che si alzava l'acqua, il barcaiolo riprendeva la navigazione per andare due volte alla settimana soltanto. Insomma. Sì. C'è anche quando parla Dante, no? Quando queste barche restavano ferme, ormeggiate, legate a terra. Dante, nel suo 17° canto dell'Inferno, dice: come talvolta stanno a riva i burci che parte sono a terra e parte sono nell'acqua. Però pure anche Dante parla di queste cose qua. Di fiume, sì, e cultura in generale, straordinariamente, sì, bella. Proprio. No, ci sono tutte queste esperienze e compagnia. Ho l'impressione che, sicuramente dovrebbe essere così, che la pazienza fosse uno dei tratti necessari, cioè essere impazienti in quei casi non serviva a niente, ma probabilmente creava frustrazione, non so. No, la pazienza è sempre stata la virtù dei forti. Ecco, appunto. E quando appunto navigavi questi fiumi che prima non ho detto, una bella cosa, sapete che noi non avevamo a bordo le galline, le uova, eccetera. Facevamo il baratto con lo zucchero e con gli arachidi, perché caricavamo anche di arachidi, certo, e con gli arachidi, certo, ho imparato a fare zucchero e arachidi, anche i croccanti. Ci facevamo il croccante direte a bordo. C'era la stufa, la cucina economica, che tutte le sere, quando ero un morè, ero all'inizio di diventare marinaio. Morè, cosa sarebbe morè? Un apprendista marinaio. Ho capito. Allora dovevi imparare, avevi la stufa, la cucina, sì, a rompere la legna piano, senza danneggiare la barca sul paramasae, per accendere la stufa al mattino presto e preparare il caffè per il capobarca. E su questo aneddoto noi ci fermiamo un attimo. Andiamo alla quarta, alla terza canzone. Esatto, che è il tango della gelosia. Guardano gli altri, io fremo perché io il tuo cuore lo voglio soltanto per me. Non so io neppure cos'è, ma non temere, non sono geloso di te. Eccoci di nuovo in studio e con il nostro abituale intermezzo, siparietto, storie di che altri, perché naturalmente possono esistere delle barriere linguistiche, ma non delle barriere dei sentimenti e delle emozioni. In questo caso abbiamo appunto il Johann Wolfgang Goethe, Woher sind wir geboren? Woher sind wir geboren? Aus Lieb. Wie wären wir verloren? Und lieb, was hilft uns überwinden? Die Lieb, kann man auch Liebe finden? Durch Lieb, was lässt nicht lange weinen? Die Lieb, was soll uns stets weinen? Die Lieb. Beh, allora, da dove siamo nati? Da dove siamo nati? Dall'amore. Come saremmo perduti senza l'amore? Cosa ci aiuta a superarci? L'amore. Si può trovare anche l'amore? Con amore. Cosa abbrevia il pianto? L'amore. Cosa deve unirci sempre? L'amore. E voilà, con questo allora, inno all'amore amore, di sì. Johann Goethe, andiamo con un altro intervento del nostro ospite, chiedendogli come si svolgeva la vita a bordo, che deve essere un argomento di una importanza fondamentale, perché dà proprio l'idea di quello di un mondo che è scomparso, ma scomparso soltanto, come dire, nella nostra percezione quotidiana, ma è rimasto vivo nel ricordo. Sì, allora la vita di bordo si svolgeva così. Intanto non andavo mai a casa, non sapevo neanche cos'era la casa mia. Addirittura mai sì. neanche ogni tre mesi. No, perché la barca se era qui nella zona, sì, ma se navigavi eri sul Po o in altri luoghi, non andavi a casa. Allora, prima di tutto, quando aspettavi il carico, specialmente d'estate, e la barca era vuota, al mattino, all'alba, dovevi alzarti presto e mettere da prua a poppa quelle vecchie vele di protezione del fasciame. È come quando si copre un cavallo che suda. Sì, sì. Allora si metteva queste bandine da prua a poppa in modo che i raggi del sole non entrassero sui madieri, sulla fiancata. A seccare. Perché diciamo, scalchivano le stoppe, però prima di mettere la bandina col remo, con la pala del remo, te che davi una sciafata all'acqua per bagnare la fiancata. Ah sì, però questo lo facevi di mattina e di sera quando levavi le tele, perché dopo, quando dovevi andare a caricare, caricavi questa barca, andava giù anche 2,20 metri, entrava acqua, la tolpa sopra era scalchita, faceva acqua per 6-7 ore, dopo si stagnava. Però a bordo il barcaiolo doveva sempre avere dei sacchi di segatura asciutta che si procurava prima di affrontare il viaggio. Allora si metteva in un luogo dove c'era il moente d'acqua, nella piarda, e con una pertica e una cesta, la cesta era fissa sulla pertica di 4-5 metri, si riempiva di segatura e si andava sotto sul ginocchio dell'imbarcazione, la prua e la poppa, si teneva vicino alla fiancata, usciva la segatura asciutta e andava sulla falla e a magagna. La magagna beveva acqua e secatura e così non entrava più acqua. Acqua, quindi si stagnava, mentre, si stagnava tutto. Mentre l'inverno non era così. L'inverno, anche quando rimanevi vuoto, non servivano le tele, l'inverno si riscaldava l'alloggio con la cucina. Con la cucina c'era la cucina economica, si faceva da mangiare. Io ero un abilissimo a fare la pasta e fagioli. Abilissimo. E allora dovevi mettere sulla prua, dove c'era la stufa, fuori, dovevi mettere dei sacchi di giuta e bagnarli in continuazione, perché la stufa li apriva. Apriva il fasciame. E dopo, allora, quando pioveva, entrava l'acqua. D'inverno, la vita di bordo d'inverno, quando eravamo vuoti nelle marittime e quando c'era la luna a metà, sai che ci sono 13 lune e un anno, una luna si forma ogni 28 giorni. 28 giorni, e esatto. Quando la luna a metà, ci sono i morti d'acqua, l'acqua non si muove, non va giù e non va su. I morti d'acqua. Ferma, l'acqua è morta, ferma. E si ghiaccia. Urca. Allora corremo col mezzo marinaio. Dovevamo rompere il ghiaccio che si formava in continuazione, perché questo stringeva, faceva una morsa, rompeva il fasciame. E dopo d'inverno, naturalmente, la barca la dovevi sempre tenere pronta per il carico, le stive pulite, sempre la pulizia delle stive e il controllo totale, facevi la manutenzione alle stive, alle boccaporte e a tutto quanto il corredo dell'imbarcazione. Quindi avevate da fare durante il giorno? C'era da fare. Non voglio dirvi una poesia, ve la posso dire? Assolutamente. Quando il nonno, quando lo zio ci raccontava il filò, come nelle stalle dei contadini. Sì. Un filò, allora, acquatico. Il filò sotto coverta, sotto la prua. E ora dice: ho ascoltato il canto dell'onda sull'argine e il tonfo di un remo da parando. Ho visto la grande vela posata nel cielo camminare tranquilla sull'acqua del fiume e ho ascoltato le voci racchiuse tra i sassi nelle piarde nascoste sotto l'arco dei ponti e l'eco dei passi pesanti dei cavalli che viene dalla terra battuta. Ora dormono i burci sul fondo del canale ed è il cuore dei barcari. Di tutto questo ora non sono rimaste solo che parole. Un lungo filò sotto coverta. Iagomare, Gaeun, Carosso, Marafon, Cavanti, Carivanti, Torco, Chimeto, Refada, Repoppe, Redancia, Castria, dormi marinero quel bulcio va. una lingua a sé stante, proprio un linguaggio, un codice proprio di comunicazione di personaggi straordinari che, non so, trovo che siano un mondo a parte, fosse un mondo a parte che tende ma non riesce mai a scomparire. Sbaglio? Non scomparisce. Anche mi sono dimenticato di dire una cosa, quando aspettavamo il nostro carico, si navigava il fiume via via e facevamo la sosta sulla riva del fiume, che c'è un detto che dice: barca i gada, morosa trovata. Qui entriamo nel personale, presumo, o sbaglio? Sì. Ecco. Anch'io ho sposato una figlia di barcaioli. Ah. Dopo, quando ho perso il mio lavoro di barcaiolo nel 78, allora ho cominciato l'attività turistica con battello, vaporetto, ho iniziato a trasportare passeggeri, ho cominciato con le scolaresche. E adesso lo fa ancora? E adesso continuo, ho fatto un battello più grande, trasporto scolaresche sul Sile, dove vado anche le isole, Torcello, Murano, Murano, San Francesco, Chioggia, allietando, raccontando storie, aneddoti di questa mia vita vissuta. Ah, chissà che contenti che sono i bambini. Specialmente sono bravissime le insegnanti. Le insegnanti preparano molto bene i ragazzi prima. Qualche volta mi chiamano perché vado a scuola a spiegare il viaggio che facciamo. Ah, e questo lo trovo interessante. Eh beh, sì. Molto. Sì, perché... Diciamo le isole così della laguna e compagnia, anche presumo San Lazzaro. San Lazzaro degli Armeni. Per gli Armeni. Sono stato una volta e mi ha incantato. Tutte quelle isole veneziane che sono bellissime. Molto bella San Lazzaro, c'è una pinacoteca meravigliosa. E sai che Beppi Del Giasso, Giuseppe Stalin, si trovava a San Lazzaro quando aveva 17 anni. Ecco, questo non tutti lo sanno, adesso ascoltiamo. E lui faceva il campanaro, tirava le campane, Beppi Del Giasso. Joseph Stalin. E dopo diceva la messa assieme al prete, perché lui sapeva l'armeno, sapeva il latino, sapeva tutto. Ma se volete sapere di questa notizia, cliccate su Google, basta scrivere Beppi Del Giasso. È una cosa che io francamente non l'avevo mai sentita. Ma proprio scriverla così in dialetto, così, Google, Beppi Del Giasso. Beppi Del Giasso. E dovevo incontrarsi con un'altra persona, mi pare. Si doveva trovare sempre ai tempi di Lenin, che si trovava in Svizzera, e lì dovevo preparare la famosa rivoluzione del 17 ottobre. No? La storia è passata naturalmente. Beh, Venezia chiaramente ne avrebbe gli aneddoti da fare, Venezia, non una trasmissione, centinaia di trasmissioni. Venezia è nata sotto l'incalzare di quelle popolazioni, i barbari, esatto. Perché l'impero romano d'Oriente e d'Occidente era diviso e Roma non era in grado di fermare i barbari di Attila nel 452 e i Longobardi nel 568, costringendolo i popoli che abitavano Altino, a Oderzo e via a scappare su queste lagune e rifugiarsi, perché una volta che arrivano quei cavalli non la conoscevano, sprofondavano. E così nasce Torcello, nasce Malamocco, e la Crea, a sua volta dopo nascerà anche Venezia. Un aneddoto che mi sono dimenticato prima, sì, dopo i veneziani coi dalmati e via navigavano e su e giù, però sul Sile, qui sulle nostre osterie, i frequentatori delle osterie giocavano il gioco alla già greca, che sarebbe stato il gilet alla greca, che i nostri marinai hanno imparato con i dalmati e con i greci. E come sarebbe sto gioco? Perché è un gioco di blefo, di barato, di coraggio. Basta avere qualche ombra in più, si ha tanto coraggio. Sì, sì. E quello naturalmente non mancava, presumo. Che il coraggio è la paura che vuol fare bella figura. È vero. Esattamente così. È la paura che vuol far bella figura. Straordinario. È la questione dei Burci, poi la poesia l'ha detto giustamente. Quando sono stati affondati i Burci? Sì. Non affondati, tutti scrivono di affondati. No. Esatto, I barcaioli, il cimitero dei Burci di Casier, lì nella zona fra Casier, la riva a destra idraulica del fiume e Silea dall'altra parte. Sì. I barcaioli anziani hanno visto che non c'era più lavoro e l'armatore Bernardi, l'impresario fluviale, parlando con Genio Civile, diceva: dove posso mettere queste barche lì, che come muoiono gli elefanti nella savana. Esatto. Tutte quelle barche che sono lì avevano un nome, perché il barcaiolo nome di donna in metteva genere, il nome del primogenito della primogenita. Ah, ecco. Se non era sposato, un colore. Un santo, una città, una stella. Senta, sotto una pergola d'Anea, vecchio barcaro, sono una banchea, sempre in silenzio, col viso al sol che more, gli occhi persi, di oltre ciclo scorre. Sul filo di ricordi si consuma il vivar tuo, struscia fra l'onda e bruma, torre il tuo burcio, sul fondo è il morto, che dentro i suoi fondei che ha fatto l'orto. Sciappi dei pescetei che sotto prova qui l'hanno butto di soga e bissa boa. I mesi barbacani fa fio, rane, bisati, sfoi, schi anche i go. A me parda essa a bordo l'arca, a bordo di sta barca. Ma con te usmi l'aria di carbin e sboai di Silocco de Borin. Te vedi ancora il tuo burcio in pavesà, col nome di tua figlia in pittura. E in banda nelle recce te ne risenti, veniera tratti e perdersi coi venti. È il canto del morè che fa puenta, e ostia del marinero che sacramenta. Quando non risponde più il timon, andando su rinconca o moia son, i cigni ossessionai dai cocai, è il morto di acqua che ingessa i canai. È il mudo a del bodi arrestera, è il ciacquè festoso in preda fiera, accompagnar chi che arriva o chi che parte. Vecchio barcaro, no, non sta a svegliarte, e perché il tuo insogno sarà vero, ritornerà il tuo burcio con San Piero, passando di là, dove non sa mai inverno, volta il caligo in posta suo eterno. Eppure guarda la cultura che ha sta gente, se tu vuoi cultura devi dare da loro, ma guarda, una appunto, cosa meravigliosa. E naturalmente questo è un inno all'amore e questo è lo stesso lo dedichiamo, titolo sì. Di Milva, sempre inno all'amore, all'amore. A te una vita che di gioia sia fiorita, la mia vita ti darò. Perdonarti ogni mattino la fiducia nel destino, il destino tuo sarò. Perché forte sia il tuo cuore nella prova del dolore, il mio cuore ti offrirò. Per lasciare a te sognare quanto un sogno può donare, senza sogni resterò. Eccoci di nuovo in studio con il nostro Glauco, al Glauco quale Stefanato. Naturalmente, cosa possiamo chiedere? Quali erano le difficoltà della navigazione, innanzitutto? Perché difficoltà devono essere state estreme. Oggi è tutto semplice, tutto facile, si ripara, si fa di qua e di là. Ma all'epoca? All'epoca, sì. Adesso abbiamo radiotelefoni, siamo collegati col mondo, abbiamo radar, abbiamo tutto. Mentre una volta no. Se c'era nebbia, il caligo, dovevi aspettare che la nebbia si alzasse e andasse via. La nebbia arriva col vento del Garbin. Il Garbin. Nebbia. Lo sentivi, lo annusavi. Lo annusavi che arrivava la nebbia. Sì, sì, sentivi l'odore. Aspettavi 3-4 giorni. Dopo la difficoltà era l'acqua alta. Con l'acqua alta dovevi mettere la barca al sicuro, legarla in sicurezza e aspettare che i fiumi, perché Sile non era un fiume pericoloso, ma gli altri sì, che l'acqua defluisse. E dopo, quando c'era il vento, e lo scirocco? Quando c'era il vento, lo scirocco ci aiutava un po', col vento di bora non riuscivi a governare l'imbarcazione. E dopo non tutti i fiumi erano che non si potevano navigare, si navigava anche quando c'era del brutto tempo, però con la motorizzazione, non con la vela. Ecco, io ho cominciato nel 60 e andavo a caricare di qua, di là, su viaggi, fiumi, via via. Dopo nel 65-66 è arrivato un po' di crisi e sono andato a lavorare a terra in una fabbrica di mattoni. Ma lì ero vicino al fiume, perché le fornaci, le fabbriche le costruivano lungo i fiumi, vedendo le barche passare, mi viene questa nostalgia, non sentir più la barca, il ciacolò festoso dei barcaioli, ascoltare il profumo all'alba e via via, niente. Allora, e lì mi sono trovato la ragazza, lavoravo nella vetreria di Persiano, fornace, gabellotto e vetreria da Persiano. Lì mi sono trovato la ragazza, la Luisa Nordio, che dopo è diventata mia moglie. E lì dopo, con mio fratello, abbiamo preso una barca in affitto, più grande, di ferro, dove trasportavamo frumento, avena e grano fino a Ferrara, Chioggia Ferrara. Motorizzata. Certo. E lì, a un certo momento, nel 78, c'era il Po Alto, non si poteva navigare e passare la conca. Dopo un paio di giorni risento che si apre la conca di navigazione, sento un ciacolò festoso, sono tutti bambini a bordo di un battello che si chiamava Eridus, l'antica capitale sumera che porta il nome del Po. E lì ci è venuta l'idea di fare questa cosa, ci è scattata questa idea e da lì abbiamo cominciato, io e mio fratello Leo Damante. E lì abbiamo chiesto qua, chiesto là, i sindaci erano favorevoli, le proloco abbiamo interpellato i presidenti, ci hanno dato coraggio. Abbiamo trovato un ingegnere di San Giuseppe, si chiamava De Rosa, un ingegnere. Lui, quando abbiamo parlato di questo, lavorava in regione, ha detto, siccome noi non avevamo penna, mi arrangio tutto io. E lui ha fatto permessi dove fare cosa, perché dovevi avere una licenza trasporto di persone. Si è arrangiato tutto lui. Ho pagato la tangente. Gli ho portato una pezza di formaggio e una damigiana di vino e una sorpresa. E quella è stata la mia tangente per ringraziarlo. Il mediatore che lo di tutto, ecco. E quando prima parlavo della laguna, mi sono dimenticato di dirvi. La laguna era, si chiamava Euganea, per i popoli euganei, i popoli di Padova, i nostri popoli veneti che si scontravano. Allora, i romani la conoscevano come la laguna, si può dire, gallica, i cisalpini, gli aquitanci, i celtici. Mentre il poeta latino Marco Valerio Marziale, nato a Bilbi in Spagna, lui parla della laguna Euganea in riferimento ai colli eugani. E dice, o lidi di Altino che emulate le campagne di Baia, scelve consce del destino di Fetonte, driade e gentile, dove l'antenoreo fauno fece sua, sulle rive dell'Euganeo lago, e tu Aquileia, che il lidio timavo abbella, mentre Cellero beve la settemprice onda, voi sarete il porto tranquillo della vecchiezza mia. Che bello, che straordinario. Bello, ma bello. Una poesia, questo, non lo so, questo tipo, questo mestiere che poi era un'arte più che un mestiere, diciamo, ma è un'arte che naturalmente richiedeva, non so fino a che periodo, dopo me lo dirà lei, i cavallanti. Chi erano i cavallanti? I cavallanti sono tutte quelle famiglie che abitavano in riva al fiume di contadini e che avevano gli animali. Attenzione, avevano anche in affitto gli animali, dove c'erano anche dei conventi lungo il fiume, dove le suore a Casale Silea, Sant'Elna, il convento della Celestia, dava in affitto ai contadini i buoi per fare l'attiraglio. L'attiraglio. Attiraglio, perché non c'era la motorizzazione. Ho capito, sì, fino a che periodo? La motorizzazione arriva negli anni 55 circa, qualcosa prima, tutti. Quindi avevate quelli che tiravano. C'era chi faceva l'attiraglio e lì arriva la motorizzazione. Allora i barcaioli andavano a comprare i motori vecchi scartati dalle guerre dell'Africa nei campi di demolizione. E lì imbarcavano i motori. Se voi andate a Casier, sulla Piarda del Sile, la c'è Piarda, che sarebbe che un'ansa dove l'acqua gira, fa il vizio e ritorna su. C'è una vecchia gru lì in ansa, proprio un cimelio storico, per indicare che quella era la gru dove i barcaioli imbarcavano i motori, alzavano la famiglia Paparotto, imbarcavano il motore, lo alzavano e dopo piano piano lo callumavano. Lo calumavano, calare, si dice calumare. A calumare. Sulla poppa dell'imbarcazione e lì lo mettevano a punto. Dopo facevano i collaudi e tutte queste cose qui. E riprendeva la navigazione commerciale con il motore. Non ci si impiegava più 10-15 giorni, anche una settimana. Bene. Diciamo che la questione però perdeva forse, poi naturalmente per chi doveva viaggiarci perdeva un po' quel lato romantico che aveva, come dire, la navigazione con la vela, diciamo, se vogliamo. Certo, no? Perché dovevamo imparare, i motori erano vecchi e non eravamo dei motoristi, però quando si rompevano dovevamo imparare anche ad aggiustarli, quindi un'economia di sussistenza, di sussidiarietà, che lì non c'era il meccanico pronto, quindi saper fare di tutto, immagino. E lì vi facevate mangiare anche tutto. Quando andavo a Venezia e al porto arrivavano le navi di giapponesi cariche di tonni piccoli da 13, 14, 15, e noi portavamo a loro del vino e loro ci davano i tonni, questi tonni giapponesi. Quindi, di solito la nostra specialità era quella di fare con la cipolla, l'aglio, fare il sfritto, no? Pomodoro, una bella fetta di tonno, si cucinava e dopo si condiva la pasta. Però attenzione, sapevamo anche pescare, perché a fine marzo, aprile, quando entrava l'acqua di marea, c'era caldo, entravano anche le seppioline che galleggiavano. Allora con la barca piccola, la scialuppa, il remo, e si vogava, e la voega, lo schiral, si andava a prendere le seppioline e ci facevamo il risotto con le seppioline. Era facile prendere queste seppioline. Galleggiavano. Sì. Oppure di sera si metteva una lampada, un chiaro, e attiravi le seppioline. E poi voi le pulivate e le cucinavate. E anche facevamo molto risotto con le anguille, perché sul Sile c'erano le anguille. Non c'è solo questo fiume Sile, ce n'è uno a Pordenone, ce n'è uno in Galicia, Spagna, e ce n'è uno in Persia, si chiama Nan. E quindi praticamente sempre fiumi di risorgiva, straordinari. E niente, questi qua sono tutti, come dire, aneddoti che sono straordinari. Mi viene in mente... così un saluto naturalmente doveroso, noi non la conosciamo, ma la signora Luisa chiaramente credo che noi la meriti salutiamo. Dopo aver fatto tutto questi passaggi, queste avventure e compagnia, vogliamo fare un saluto a lei e un saluto a tutti i familiari del nostro amico Glauco, che ringraziamo per questa carrellata straordinaria, questa avventura vera. Altro che Indiana Jones, queste erano vere avventure. Ma mica da cosa, sua moglie era spesso in barca con lei? Sì, da quando ci siamo sposati lei è diventata una barcaiola, è anche molto meticolosa. Bene, benissimo. Bene. Noi non possiamo far altro che ringraziare il nostro amico Glauco. Certo. E a Dio piacendo, alla prossima volta. E grazie veramente anche di aver accettato il nostro invito. Grazie da parte mia. E chissà che ci sia un'altra possibilità. Volta. Possibilità. Grazie mille. Allora salutiamo e diamo appuntamento, a Dio piacendo, alla prossima domenica. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.